cominciando questa nostra meditazione che facciamo insieme, mi venivano in mente quelle parole che Gesù dice ai suoi discepoli proprio all'inizio dell'ultima cena, secondo l'Evangelista San Luca, che diceva: ho tanto desiderato di poter mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. E pensate che una volta si traduceva, adesso questa è la traduzione nuova, si traduceva: ho desiderato ardentemente, eh? E ho proprio tanto desiderato di... E stava pensando all'Eucaristia, no? Stava pensando forse all'addio da dare ai suoi discepoli, anche se poi dopo la sua passione avviene la sua risurrezione e quindi poi si ritrovano. Infatti a lui dice: per un poco non mi vedrete, per un altro poco poi invece ci rivedremo, e loro non capiscono che cosa sta dicendo. E noi siamo tutti quanti nel tempo pasquale, no? Nella Chiesa Cattolica siamo nel tempo pasquale già da alcune settimane, nella Chiesa Ortodossa è Pasqua domani, vero? Ecco. Quindi salutiamo una nostra sorella della Chiesa Ortodossa che festeggia la Pasqua proprio questa notte, quindi domani. Ma comunque festeggiamo tutti la stessa Pasqua, che significa che Gesù, che è Dio, che si è fatto uomo nel seno di Maria, veramente è morto perché per la nostra salvezza, per dimostrarci tutto l'amore infinito di Dio Padre per noi, per dirci che il suo amore non viene meno neanche col più grande dei peccati, che può essere quello di dare la morte al Figlio di Dio. E poi è risorto con la forza che lui stesso ha come Dio. Qualche autore del passato diceva che Dio Padre si è chinato su di lui e l'ha baciato, per ridargli la vita. Però in realtà Gesù riprende la vita da se stesso, dice, non è un altro che gliela dà. Possiamo pensare così, che è Dio Padre, no? che gli ridona la vita umana, ma in ogni caso è la vita che Dio ha in se stesso e che fa in modo che lui adesso abbia una vita che non muore più. Quindi lui ha la nostra natura umana, cioè è uomo come noi, di carne ed ossa come noi, e vive in mezzo a noi. Questa è la nostra fede. E noi ci basiamo su questa fede quando, come adesso, ci raduniamo per pregare. Ciascuna di voi può pregare quando vuole, e di fatto molte di voi hanno l'esperienza di pregare per conto proprio, nel silenzio del proprio cuore, quando si alzano al mattino, quando camminano per strada, quando prima di cominciare un lavoro che offrono a Dio quel lavoro gli chiediamo aiuto per compierlo bene. Possiamo pregare quando c'è un momento di difficoltà, quando abbiamo bisogno di sentirci amati, di sentirci ascoltati, abbiamo bisogno di salvezza, quando ci sentiamo fragili, deboli. E allora noi preghiamo nell'intimo del nostro cuore, eleviamo a Dio i nostri pensieri. Ma qualche volta nella Chiesa è molto bello pregare insieme, lo facciamo sempre nella liturgia, quindi, e senz'altro nella notte di Pasqua è il momento più elevato del pregare insieme della Chiesa. Ma in altri momenti preghiamo insieme, ecco, con i salmi o con i canti o con il rosario della Vergine Maria, che forse nel mese di maggio, che comincia domani, con frequenza reciteremo anche insieme in famiglia o con gli amici. E poi abbiamo questa modalità di pregare insieme e allo stesso tempo in modo personale, no? Quindi siete tutte insieme e io vi do dei suggerimenti di meditazione, di preghiera, e però ciascuno di voi nell'intimo del suo cuore può ascoltare Gesù che le parla, lo Spirito Santo che le illumina, il Padre che vi dice che vi ama, e anche dire qualcosa se volete, no? Ma a volte noi preghiamo anche senza dire parole, ci basta uno sguardo, ci basta un battito del cuore, cioè ci basta la verità di qualcosa che noi sentiamo dentro e che diciamo al Signore semplicemente esprimendolo così, semplicemente essendo come siamo, sapendo che Lui ci conosce, Lui ci guarda, Lui legge nel nostro cuore, non abbiamo neanche bisogno di parole. A volte serve a noi dire qualche parola interiore, a volte ci serve dire le parole esteriori della liturgia o di una preghiera stabilita o di un canto, ma altre volte basta appunto il silenzio di compagnia. E in questo momento noi crediamo che Gesù risorto è presente tra di noi, crediamo che è presente nell'Eucaristia, nascosto nell'Eucaristia, che è conservato in questo tabernacolo, crediamo che è presente tra di noi perché Lui lo ha promesso, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, crediamo che è presente nella nostra anima, nella nostra persona. E io vengo 2 ore fa, ho avuto la fortuna, la gioia di battezzare una bambina piccola che si chiama Anna Stefania Maria, ma si chiamerà Anna, diciamo così, nella quotidianità. E poi, fra l'altro, l'ho battezzata con questo gesto così emozionante, per il rito ambrosiano della immersione, si immerge il suo capo nel battistero, no? Nell'acqua. Devo stare un po' attento che non scivoli, ma però insomma si può fare perché la bambina è piccola. E quindi immerge 3 volte il capo, no? Io ti battezzo, Anna, Stefania Maria, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è un momento molto commovente, a parte lo stupore di questa bambina che sente il fresco dell'acqua, ma però, noi crediamo che in quel momento Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo cominciano a stare dentro di lei in un modo nuovo, non che prima non ci fossero dentro di lei, ma in un modo nuovo. E la Trinità la prende come sua figlia, come se fosse Gesù. La fa somigliare a Gesù per sempre, no? E allora noi crediamo che finché non ecco, tanto che ciascuno di noi, se è battezzato, ha questa carta, questo sigillo di Cristo, no? E poi, se noi siamo nell'amore di Dio, noi viviamo quello che invece in questo caso nel rito romano, domani si leggerà nella messa, il Vangelo di Giovanni, in cui Gesù promette di venire ad abitare dentro di noi, no? E questo avviene grazie a una domanda. In tutti i 4 Vangeli c'è solo Giuda, l'Apostolo Giuda, non quello che l'ha tradito, ma l'altro, che poverino sarà un po' depresso in cielo perché nessuno porta il suo nome. No, in realtà in altre culture, perché siccome ha lo stesso nome di colui che ha tradotto Gesù, no, perlomeno nella nostra. In altre lingue si usa, no? San Giuda e lui è un discepolo che nel Vangelo appare solo una volta e fa una sola domanda. Ne avrà fatte tante altre a Gesù, ovviamente, ma nel Vangelo c'è una sola domanda che è questa. Gli disse Giuda. È l'ultima cena, racconta San Giovanni, non l'Iscariota. Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? È una domanda profonda, no? Cioè, tu dici a noi che sei il figlio di Dio, ci fai capire che sei il figlio, ci accompagna ad avere fede in te, Dio che si è fatto uomo, perché non andiamo, cioè, non, in giro a dirlo a tutti, insomma. Non che Gesù non abbia parlato alle folle, ma si capisce che sta preparando soprattutto il gruppo dei suoi discepoli, anche perché sa che sarà dura, mantenere la fede quando lo mettono in croce, perché per un personaggio del popolo di Israele che uno fosse messo sulla croce voleva dire maledetto da Dio, no? Com'è possibile che Dio venga appeso al legno della croce, no? Quindi sarebbe stato uno scandalo molto forte per loro, allora Gesù li prepara. Però Giuda fa questa domanda e noi, caro San Giuda, ti ringraziamo di questa domanda e anche San Giovanni Apostolo di averla poi scritta nel suo Vangelo, no? E allora Gesù gli risponde, gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E noi, cioè il Padre e io, e sottinteso lo Spirito Santo, verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Sapete come quando uno va a fare un viaggio o sceglie, va su internet per scegliere in che albergo vado, no? Se devo andare a fare le vacanze in quel posto, in Riviera o dove sia, e sceglie l'albergo, no? A seconda delle stelle, insomma, e Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che albergo ha scelto per stare nel mondo? E la nostra persona, quella di ciascuno di noi, quella di ciascuno dei battezzati, cioè vuole abitare e abita dentro di noi, no? E vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, eccetera, no? Ma e Giuda potrebbe, probabilmente San Giuda, il non l'Iscariota, avrà cercato di capire questa misteriosa risposta di Gesù, perché non è così chiara, no? Perché ti manifesti a noi e non al mondo? E Gesù dice: se uno mi ama, noi verremo a lui e prenderemo dimora. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo abiterà in lui. Io penso che Gesù voglia dire questo: ho deciso di non essere io il grande protagonista che va in tutte le piazze del mondo. Una volta che sono risorto, posso fare un viaggio, non c'è nessun problema perché non muoio più, quindi posso girare il mondo. Cioè, se volesse Gesù lo potrebbe fare, eh? Va a Shanghai, poi ad Hong Kong, poi a Pechino, poi a Manila, cioè, può a New York, a Buenos Aires, cioè, nelle foreste della Sera, potrebbe apparire lui, no? Così come è apparso ad alcuni discepoli dopo la Pasqua. E invece sceglie di essere presente, di farsi conoscere, di manifestarsi attraverso di noi, cioè attraverso i cristiani che vivono la sua vita. Cioè, quindi in noi abita il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e quindi ciascuno di noi è come un altro Cristo o addirittura lo stesso Cristo. Ecco cosa vuol dire essere cristiani: essere Cristo. Quindi Gesù che risorge e in qualche modo ci fa comprendere che lui è dentro di noi. Questo secondo me è il motivo per cui in alcune apparizioni succedono delle cose molto interessanti, no? Per esempio, che Gesù non lo si riconosce, non lo si riconosce subito. Per esempio ci sono i due discepoli che vanno verso Emmaus, racconta San Luca, e a un certo punto compare un viandante che si mette accanto a loro e fa la strada con loro, ascolta i discorsi che loro fanno, ma loro non capiscono che è Gesù, probabilmente perché non pensavano che potesse essere Gesù, perché Gesù è morto, ma probabilmente anche non c'era una tale somiglianza fisica. Anche Maria Maddalena non lo riconosce subito. Quando lei sta fuori dal sepolcro e arriva, dopo che gli angeli gli hanno chiesto: donna, perché piangi? Chi cerchi? Donna, perché? E appare un altro personaggio che gli dice: donna, perché piangi? Chi cerchi? E lei si gira e dice: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo, no? E pensava che fosse il custode del giardino, no? Non lo riconosce subito, lo riconosce quando lui le dice, la chiama per nome, le dice Maria. Allora lei lo riconosce, cioè Gesù si fa riconoscere da lei quando lui la chiama per nome. E allora lo abbraccia, poi Gesù però gli dice, vai dai miei fratelli. Non mi trattenere che non sono ancora salito al Padre, quindi cioè, è come dirgli non mi trattenere, vuol dire adesso, dopo la mia risurrezione, questo lo interpreto io, non staremo più insieme come prima, così no, tutto il tempo che vuoi dal punto di vista fisico, vedendoci, guardandoci, parlandoci, ma io sono presente in te, quindi se tu vai dai miei fratelli sei tu che gli dici che io sono risorto. E infatti quando lei va nel cenacolo, e che c'erano tante persone come siete voi qua e che erano un po' sconvolte dalle cose avvenute, erano addolorate, avevano già sentito dire da qualcuno che il sepolcro è vuoto e lei gli dice ho visto il Signore. E dopo un po' il Signore si fa presente anche in mezzo a loro, si fa vedere. È come se dicesse, fidatevi, quando io vi mando Maria Maddalena, io abito in lei. E con i due discepoli di Emmaus succede la stessa cosa. No? Loro, se volete, rileggiamo un po' quello che dice San Luca. In quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme. E conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Una volta ho sentito fare questa osservazione: Gesù non si fa riconoscere proprio perché ci sta dicendo adesso. Io scelgo di farmi conoscere attraverso di te, quindi con tutti i vostri volti. Con tutti i vostri volti. È molto bella e è molto suggestiva questa spiegazione ed è molto vera, molto vera. Poi probabilmente Gesù poteva, cioè ci possono essere tante altre motivazioni, no? E in effetti loro non lo riconoscono. Ed egli disse, e quindi in qualche modo vedete che Gesù fa con loro qualcosa che possiamo fare anche noi con i nostri amici. Perché appare come uno qualunque tra di noi. E quindi in questo modo insegna a loro due, e poi a tutti noi, che anche noi possiamo fare la stessa cosa. Cioè nel camminare, nel fare le cose, nel vivere la vita insieme ai nostri amici, nello stare insieme, nel viaggiare insieme, nel lavorare insieme, nello stare insieme in famiglia, insomma nel giocare, nel divertirci, in tutte le vicende della vita umana, nella normalità della nostra vita, ciascuno di noi battezzato è Gesù Cristo. E può essere Gesù Cristo. Cioè, e allora, certo, e si capisce che Gesù che cosa fa? Questo è facile farlo per noi. Ascolta quelli due che parlano. E a un certo punto anche gli domanda qualcosa, gli dice, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? È divertente, no? Gesù fa finta di non sapere niente, eh? Fa finta di, forse per aiutarli a parlare con lui, no? Non solo tra loro due, ma accorgersi che c'è questo forestiero, devono, insomma, che dicano anche al forestiero cosa è successo a Gerusalemme di così importante. E si fermarono col volto triste. È molto vivo questo racconto di San Luca, eh? È come vedere un film, no? Probabilmente, anzi, sicuramente sono questi due che hanno raccontato queste cose, no? Sono questi due che, cioè si capisce dal racconto che viene da loro il racconto, no? Cioè è molto vivo, molto pieno di particolari. Quindi, come accade, no? Qualche volta quando uno si sorprende di una domanda, si sta camminando, si ferma e dice: ma cosa stai dicendo? No? Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Anche qui è il buon umore di Gesù e anche la sua capacità di fare il grande attore, perché non si mette a ridere, no? Perché uno avrebbe potuto dire: ah, invece li lascia dire, no? Perché Gesù è interessato che noi possiamo parlare con lui, che noi possiamo sfogarci, che noi possiamo dire tutto quello che pensiamo. Noi forse, avendo fede, possiamo capire: quello che io penso è sicuramente una sciocchezza, perché tu, Signore, sai tutto, sai di più, mi sapresti spiegare il motivo di tutto quello che mi sta succedendo. Però a Gesù gli interessa che noi glielo raccontiamo. E questo è il significato, è uno dei significati, uno dei motivi, una delle cose belle della preghiera fatta col cuore, no? Della preghiera dentro di noi, quando guardiamo il tabernacolo, guardiamo il crocifisso, oppure semplicemente dentro di noi diciamo: Gesù, ti racconto quello che mi succede, mi sfogo con te, no? E ti racconto come se tu non lo sapessi, anche se so che lo sai già. Perché raccontandoti quello che mi sta succedendo, quello che è il problema della mia vita, quello che sono i problemi o le difficoltà o anche le gioie o i progetti o le speranze della mia vita, no? A volte anche le delusioni, in questo caso per questi due è una delusione, no? Se te le racconto la delusione di Gesù, è più facile che tu me la illumini e anche me la guarisci, me la togli, no? Dice: che cosa? E vedete Gesù com'è bravo. Cioè, domanda loro: che cosa? Non vuole fare il maestro lui, capite? Non vuole dire: adesso vi spiego io. Lo dice dopo lo farà. Lascia che loro dicano quello che pensano, quello che è la loro situazione in quel momento. Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. E pensate, cioè, loro manifestano il loro grande problema, la loro grande delusione, la loro grande bruciatura. E pensate, loro hanno già tutti gli elementi per avere la fede nella sua risurrezione. Dicono: ma alcune donne delle nostre, sapete che Gesù, ecco, era, cioè, seguito da uomini e anche da donne, cosa che allora non era frequente, no? I rabbi, i maestri Israele si facevano seguire e insegnavano solo a uomini, ma invece Gesù, invece c'è un gruppo di donne nutrito che lo segue. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba. Le donne sono le protagoniste di tutti gli eventi attorno alla passione e alla resurrezione, no? E fanno tutte una bella figura. Tranne giusto forse la serva nella casa del sommo sacerdote, che stuzzica Pietro perché, cioè, lo induce un po' al rinnegamento. Ma comunque, al di là di quello, le donne che sono sulla strada della croce consolano Gesù. La moglie di Pilato dice a Pilato: lascia perdere, no? Non ti mettere in questa cosa, che quest'uomo è giusto, nel sogno ho visto che. E poi sulla strada appunto della croce le donne di Gerusalemme piangono per lui. La tradizione dice di quella donna che si chiama Veronica, no? Che gli asciuga il volto e il volto rimane impresso su quel panno. E e le donne stanno sotto la croce insieme con Giovanni, che è l'unico uomo che ha il coraggio di stare lì. Le donne invece, Maria e le altre, hanno ancora, sono, alcuni di loro sono mamme di altri apostoli. E poi sono le prime ad andare al sepolcro il primo giorno dopo il sabato per portare i loro profumi, per curare il corpo di Gesù, e quindi sono le prime che vedono il sepolcro vuoto, che ricevono l'apparizione degli angeli, che ricevono le prime apparizioni di Gesù. E anche questi due di Emmaus lo riconoscono. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. È precisissimo il loro racconto. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba, hanno trovato come avevano detto le donne, come dire, la testimonianza era vera, è proprio così, ma lui non l'hanno visto. E quindi loro non riescono ad arrivare alla fede, cosa che invece tutti gli altri che verranno dopo, gli basterà questa, diciamo, la testimonianza degli altri, gli basterà per credere, no? E anzi, tutta la Chiesa si basa sulla testimonianza di chi ha visto allora e tutti noi non l'abbiamo visto. Quindi questi due per sé avrebbero potuto ricevere la fede anche solo dall'annuncio delle donne e al fatto di vedere il sepolcro vuoto e degli angeli che avevano detto che lui è vivo. Però non hanno non hanno fatto questo salto, no, della fede soprannaturale. E allora Gesù, bisogna dire la verità, li rimprovera un po'. A questo punto parla lui, no? Ma quando Gesù rimprovera è per amore, sempre, no? E per scuotere, per aiutare ad arrivare alla fede, no? E gli disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quindi a questo punto sì che Gesù gli spiega, ma vedete che tutto quello gli avrà detto, vedete che tutto quello che è successo era già stato previsto dai profeti, avrà parlato del profeta Isaia, per esempio, no? I quattro carmi del servo e alcuni salmi che descrivono perfettamente anche la sua morte in croce, no? Quando le stesse sue parole erano state previste, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? E allora gli racconta tutte queste cose. Quindi lui non dice a Gesù: stolti e tardi di cuore perché non avete creduto alle donne o non avete creduto agli angeli, ma alla Sacra Scrittura. Quindi va più indietro, no? Gli dà un fondamento che loro già sanno che la Scrittura è parola di Dio. E quindi, come dire, dovreste credere a quello, no? Glielo ricorda. E quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. In questa apparizione Gesù fa proprio l'attore, continua a fare l'attore, no? Fa finta un sacco di volte. Ma lo fa in questo secondo caso, nel primo caso l'ha fatto per permettergli loro di aprire il cuore senza problemi, no? Per sottolineare la loro libertà. Anche nel primo caso, se avesse sfolgorato la luce del risorto, è troppo facile, no? E poi non gli avrebbe permesso di essere protagonisti del loro cammino di fede. Noi protagonisti anche attraverso gli errori, attraverso le nostre debolezze. Gesù vuole che siamo protagonisti in questo senso. Non è un problema per lui che abbiamo problemi. Non è un problema. Anzi, è come se dicesse: ditemi, è interessante avere problemi, perché dal problema arriva la soluzione. Se no sarebbe tutto molto noioso, no? Se non avessimo problemi, non avremmo bisogno di lui, non avremmo bisogno del Salvatore, no? Quindi la cosa bella è dirgli il nostro problema, no? E poi vedete come lui apprezza la nostra libertà, non vuole imporsi, fa finta di andare più lontano, c'ho un impegno più avanti, E tanto che loro, quindi esercitando così la loro libertà, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. In un'omelia, San Cosimo di Schiavo dice: Signore, perdonaci, siamo anche quando ti chiediamo di restare, non siamo così del tutto sinceri, perché la verità non è il motivo esterno, ma piove, no? Oppure ci sono i briganti. La verità vera che loro gli chiedono di restare è perché lungo quel cammino le cose che lui gli ha detto gli hanno illuminato la mente, gli hanno scaldato il cuore. Finalmente hanno sentito una parola che ha risolto la loro angoscia. E allora dicono: non ti vogliamo perdere, aspetta, vieni qua, no? Abbiamo bisogno di te. Egli entrò per rimanere con loro, perché poi Gesù è qui per noi, è risorto, è vivo, è a disposizione di ciascuno. Non dobbiamo fare la fila, no? Non dobbiamo chiedere appuntamento. È così, con tutte le persone umane dobbiamo fare così, no? E il confessore può avere la fila, per esempio, no? E per andare all'udienza del Papa bisogna chiedere un biglietto, poi forse si riesce a stringere la mano, eh? E invece con Gesù, che è più importante del confessore, più importante del Papa, anzi, il Papa è, il confessore perdona i peccati con la potenza di Gesù, al nome di Gesù, e il Papa è il suo vicario sulla terra, è il dolce Cristo in terra, no? Come lo chiamava Santa Caterina da Siena, che abbiamo festeggiato ieri. No? E invece con Gesù non c'è bisogno di fare appuntamento, c'è bisogno di chiedere, no? Risponde subito al nostro WhatsApp, diventano subito verdi, non so come le due scheggette, come si chiamano così, e poi sta scrivendo, cioè dice: ma cosa stai? E dice: i più esperti mandano subito, sta scrivendo, e mandano subito la prima frase, poi la seconda, poi la terza. Se uno sta scrivendo, chissà cosa sta scrivendo, poi alla fine arriva una cosa piccolissima, invece sembra che stesse scrivendo un romanzo, e poi arriva: ok, no. No, comunque Gesù quindi risponde subito, anche non sta neanche scrivendo, cioè ci risponde subito, no? Cioè ci risponde a modo suo, ci risponde con una luce nel cuore, ci risponde con una. Ecco, però è sempre a nostra disposizione, gli chiediamo: resta con noi, e lui resta. Lui resta con noi a cena. E quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. È bellissimo vedere che Gesù si fa riconoscere in modi diversi, cioè a Maria quando la chiama per nome, a poi ai discepoli che sono sul lago e pescano e non trovano niente tutta la notte, poi lui dice: gettate alla rete, a destra troverete, e pescano. Dopo, quando gli fa trovare del pesce abbrustolito, che lui gli offre la colazione, insomma, sapevano che era il Signore, dice, no? Giovanni è quello, il primo che riconosce il discepolo amato, dice: è il Signore. Allora Pietro si mette rapidamente qualcosa addosso e si tuffa in mare e a nuoto lo raggiunge subito. E invece in questo caso lo riconoscono quando spezza il pane. È un gesto bellissimo e misterioso, però cioè, è un gesto umano, no? E noi possiamo pensare: Gesù ci dice: non puoi mangiare tutta intera questa pagnotta, eh? Non puoi capire tutto. Accontentati di prendere un pezzettino piccolo, una briciola. Per questo io spezzo il pane e te ne do un pezzettino. E noi ci dobbiamo accontentare ogni giorno di parlare un po' con lui e di capire una piccola cosa, no? No? Di riuscire a fare una piccola cosa. Poi può significare l'Eucaristia anche, no? Sicuramente significa l'Eucaristia. Però penso che possa significare molte cose. In ogni caso loro a quel punto l'hanno riconosciuto. E a quel punto Gesù fa ancora l'attore e sparisce dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio, quindi no. Prima è buio, bisogna stare nella locanda, adesso non c'è più problema. Corrono a Gerusalemme a dire: abbiamo visto il Signore, ma già anche gli altri dicono anche noi l'abbiamo visto, e poi a un certo punto Gesù appare anche lì, no? In mezzo a loro. Allora, io penso che, ecco, questa nostra meditazione ci aiuta a vivere un po', l'ho fatto per questo, il tempo pasquale, ad accorgerci che Gesù è accanto a noi, è dentro di noi. Non lo riconosciamo forse, no? Però ti chiediamo, Gesù, di riconoscerti, di farti riconoscere da noi, di dirci che sei tu, nelle vicende quotidiane della nostra vita, e di aiutare noi, quando scopriamo che tu sei così presente, sei così buono, se ci ami infinitamente e ci tratti come tuoi figli, che noi sappiamo dirlo agli altri facendo come hai fatto tu, camminando insieme, ascoltando, lasciando molta libertà ai nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri conoscenti, lasciando che sia lo Spirito Santo ad agire in loro. E in tutto questo io penso che noi possiamo chiedere aiuto alla Madonna, perché chi meglio di lei lo conosce e ce lo può indicare.